sé yo, viene el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una delle frasi che mi sento ripetere più spesso in famiglia è: sei un dittatore. Ma in realtà non ho nulla al dittatore, sono semplicemente lievemente isterico a volte. Però è interessante vedere quanto questa figura aburrita, detestata, che suscita moti di disgusto e palpitazioni di terrore, se pronunciata di fronte alle dirette vittime, a coloro che storicamente hanno vissuto epoche di dittatura, diventa una deliziosa e divertente facezia di contrasto familiare. Parlare del dittatore significa molte volte avere rievocazioni delle rappresentazioni grottesche, a volte comiche, che sono state fatte dei grandi dittatori. Al di là delle tragedie che seminano, della scia di sangue, di morti, di devastazione, di occultamento di ogni barlume di intelletto e di freschezza culturale che lasciano sul loro passaggio i dittatori, in realtà c'è una sorta di sulfuro e anche romanzesco alone che li circonda. Il dittatore è sempre rappresentabile come un personaggio minimamente balzano. Non ci si spiega come mai un essere umano possa avere un ascendente, aver avuto un ascendente così forte, così profondo e così totalmente irrazionale nei suoi simili, se non che questo essere sia baciato da una sorta di irrazionale follia. E la follia è il grimaldello che apre tutte le porte. Io sono il vostro nuovo presidente. D'ora in avanti la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese. Silenzio! A partire da ora, tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni 30 minuti. La biancheria sarà portata sugli indumenti per poter controllare. Oltre a ciò, tutti i ragazzi sotto il 16° anno di età, a partire da ora, avranno 16 anni. Chi è che vende le camicie di forza? Questo è il dittatore dello Stato Libero di Bananas, film degli anni 70 diretto da Woody Allen, ma ci sono un'infinità di altre rappresentazioni. Hitler che gioca con il mappamondo nella famosissima rappresentazione di Charlie Chaplin. Il dittatore, ahimè, mentre da una parte ci fa tremare le vene ai polsi, dall'altra parte non possiamo fare a meno che osservarlo nella sua grottesca rappresentazione di essere folle, irrazionale. Ma quanto l'irrazionalità riesce a muovere il plauso delle folle? Sembra quasi che il consenso di massa, la follia di massa, le masse portate a compiere i gesti più sconsiderati o essere complici o essere partecipi della follia di un dittatore amino la scintilla della follia per muoversi in maniera così indiscriminata. La placida etica e tranquilla gestione del potere in realtà non sveglia nessun palpito. Dei dittatori si parla volentieri, probabilmente a cose fatte, a babbo morto, come si usa dire, quando ormai sono destituiti, quando sono in esilio, quando sono giustiziati, quando poi vengono anche addirittura riprese una sorta di revisionismo e comincia a vedere anche nella loro opera qualche segno profondo e sottile. Questa mattina vorrei istigarvi a riflettere su quelle che sono le figure mitiche dei grandi dittatori della modernità. Abbiamo volutamente escluso, perché ormai sono personaggi su cui si è già detto molto, gli aspetti inediti e singolari sono abbastanza relativi e poi sono molto legati alla nostra storia personale, quindi non è che se ne può parlare con molta leggerezza, quindi non parleremo di Hitler, di Stalin, di Mussolini, dei grandi dittatori che hanno segnato la storia del Novecento. Invece parleremo di una serie di dittatori che hanno infarcito le nostre cronache, anche lambito in maniera trasversale la nostra storia degli ultimi decenni. Li ricordiamo più per l'aspetto leggendario, per ciò che leggevamo o ascoltavamo nei telegiornali, che erano molto diversi ai telegiornali che vediamo oggi. Non so dire se questo sia un merito o sia un demerito. Per farlo abbiamo in studio Domenico Vecchioni. Domenico Vecchioni, buongiorno. Buongiorno. È un ospite che è già venuto altre volte nella nostra trasmissione, ex ambasciatore d'Italia a Cuba, è un esperto di storia mondiale dello spionaggio, con lui abbiamo parlato spesso di spie, ma è autore di un libro, Tiranni e dittatori, volti, manie, deliri e crimini del potere assoluto, edizioni Olimpia, dove Domenico Vecchioni fa un ritratto dei grandi personaggi che ormai fanno parte di una sorta di favolistica mitologia della nostra contemporaneità. In tutti questi vede un filo comune, e quello che mi interessa, prima di entrare nello specifico dei personaggi, è analizzare quelli che sono gli elementi comuni. Il grande dittatore, colui che fa della follia lo scettro del suo potere, è animato da una profonda, insanabile, inesauribile fiducia e sicurezza sul fatto che lui faccia parte di un disegno divino. Poi non sa bene quale Dio, quale sincretismo, quale pantheon, quale entità, ma lui sta lì perché esiste una sorta di celeste predestinazione perché lui faccia il bene della sua umanità. Ma sì, la domanda alla quale non ho saputo rispondere in realtà è appunto questa, se cioè è il potere assoluto che rende ineluttabilmente folli, o sono i folli che più di altri sono portati con le loro visioni estremistiche verso a conquistarsi il potere. Il potere assoluto. Quello che è certo è che questa lucida follia, come diceva lei, che sembra essere il filo conduttore di tutti i dittatori, viene confermato dal fatto che tutti i dittatori hanno l'ambizione di creare l'uomo nuovo, di creare una nuova era, di scandire il tempo con nuovi calendari, di creare nuovi principi. Come diceva Woody Allen, la rivoluzione totale, la biancheria sopra i vestiti per controllare che sia pulita. Esattamente, o come le dicevo prima, il dittatore del Turkmenistan, Niyazov, che aveva la mania della scrittura e aveva realizzato il sogno forse di tutti gli scrittori, cioè imporre per legge la lettura della sua unica opera in tutte le scuole, in tutte le università. Gli stessi medici non dovevano più giurare su Ippocrate, ma sul suo libro, che poi viene addirittura messo in orbita, ma nel senso proprio messo in orbita in una navetta spaziale sovietica, perché la sua saggezza doveva illuminare non solo la Terra ma anche lo spazio siderale. Ma ce ne sono tanti libri, allora elenchiamoli tutti: il libretto rosso dei pensieri di Mao, il libro verde di Gheddafi, io me lo ricordo, girava un periodo, sì, sì. Ce ne stanno altri poi di testi famosi di grandi dittatori? Beh sì, il dittatore della Corea del Nord, Kim I, come lo chiamo io perché ormai una dinastia, ha scritto centinaia di volumi che riempivano tutte le biblioteche del paese, che dovevano avere solo quei volumi, quindi la mania anche pericolosi grafomani, dittatori ce ne sono stati tanti, anche lo stesso Hoxha in Albania. Ma quello che è importante sottolineare, come diceva lei, è che quasi tutti i dittatori si sentono investiti di una missione trascendentale. Ecco, Dio viene spesso e volentieri scomodato, chiamato in causa, ma poi ci sono i dittatori che si rifanno appunto a entità animiste, a delle divinità sincretiche. Duvalier ritirò fuori il voodoo. Sì, Duvalier convinse il suo popolo che lui stesso era una divinità sincretica, era la reincarnazione di Baron Samedi, sì. Di fronte ad una popolazione praticamente analfabeta, inerme, era riuscito insomma a dare questa immagine di un dittatore, però anche divinità, per cui il terrore era assoluto e non c'era possibilità di difesa da parte di questi poveri haitiani, che poi in realtà non ci sono. Si parlava addirittura di rievocazione di zombie, di eserciti di morti viventi. Esattamente, ma anche i famosi Tonton Macut, la sua polizia segreta, che ne ha combinate un po' di tutti i colori. Facevano pezzi col macete. Tonton Macut, perché riprendevano una figura un po' così mitica del sincretismo haitiano, ed erano questi semi divinità che di sera uscivano per inizialmente per mettere nel loro sacco di jute i bambini cattivi che non erano che non erano rientrati a casa, ma che poi servivano in realtà a reprimere ogni tipo di dissenso, di opposizione. In realtà probabilmente prendevano sostanze psicotrope, erano molto drogati per riuscire a uscire e fare stragi così a cuor sereno. Sì, stragi e poi rubavano anche, per cui il evocare lo stesso nome di Tonton Macoute per un haitiano dell'epoca significava il terrore. 800 24 00 24. E quali sono secondo voi i segni esteriori della follia del dittatore? Vediamo se li elencate. Quanto siete stati accusati voi di essere dittatore per alcune banalissime fattispecie, per alcune vostre abitudini? Faccio un esempio, così do subito a Domenico Vecchioni lo spunto per iniziare a parlare del primo dittatore. Io mesi fa, ormai fa parte della misera storia di questa trasmissione, trovai in un mercatino rionale un meraviglioso trono zebrato, d'argento zebrato. Me ne invaghi immediatamente, me lo caricai sulle spalle e me lo portai a casa. E ancora troneggia al centro del mio salotto nel disprezzo di tutta la mia famiglia. È bello, fatto di leoni, tutti i serpenti rigirati e soprattutto questa imbottitura zebrata. E mi dicono, sembra il trono di Bokassa. Bokassa sembrava una persona normalissima prima che ci si accorgesse che era un dittatore. Chi era Bokassa? Tanto normale, forse non lo era. Bokassa sicuramente era... Lo chiamò De Gaulle, lo insignì di onorificenza. Esatto, ma per esempio l'incontro con De Gaulle è pure significativo, perché De Gaulle per un certo tempo non volle riceverlo, perché non era tra le sue... Però un valoroso combattente per la Francia. Sì, no, è vero, no, durante la guerra si comportò bene. Però l'incontro con De Gaulle andò male, perché Bokassa aveva l'abitudine di riferirsi, di chiamare De Gaulle papà. E al primo incontro tra De Gaulle e Bokassa, si rivolge così. De Gaulle gli chiede: ha fatto un buon viaggio, signor presidente? E Bokassa risponde: sì, papà. De Gaulle si innervosisce un po', si inalbera, poi lo chiama da parte e gli dice: ma guardi, non mi chiami papà, faccia come fanno tutti, mi chiami signor presidente. Ho visto che lei ha fatto parte delle forze francesi libere, mi chiami signor generale. E Bokassa risponde: sì, papà. Quindi... Bokassa è diciamo, nel nostro immaginario è il prototipo del dittatore africano. Si autoproclamò presidente a vita della Repubblica Centrafricana, aveva un'infinità di donne, mogli. Pare, dicono, che gli trovassero pezzi di carne umana nel freezer. Vediamo di riportarlo alla storia. Sì, intanto, come per inquadrare Bokassa è sicuramente un tipico esponente di una certa, di certi dirigenti africani arrivati al potere subito dopo la decolonizzazione, in un momento molto particolare, un momento in cui i loro paesi non erano ancora indipendenti, in realtà non si potevano considerare del tutto affrancati. Non c'era manco l'idea di essere indipendenti, no. Allora, esatto, e d'altra parte la ex madrepatria non era ancora uno stato straniero, per cui tutti questi dirigenti, lo stesso Idi Amin Dada per la Gran Bretagna, erano tutti stati, avevano fatto studi nella madrepatria, avevano prestato servizio militare nei rispettivi eserciti, per cui c'era un legame molto stretto con lo stato colonialista, come diremo, esatto, oggi. Ma c'era appunto questa contraddizione che poi avrà queste conseguenze nell'esercizio come per rifarsi, diciamo, verso la madre patria del periodo della colonizzazione. E come è riuscito a diventare Bokassa a questo punto il capo assoluto del suo stato? Ma probabilmente perché intanto era un militare di carriera formato in Francia e quando tornò nel suo paese, in realtà di ufficiali ce n'erano pochissimi, ce n'erano due o tre dello stato indipendente del Centrafrica, quindi lui subito diventa il responsabile delle forze armate del suo paese, e da lì poi il classico trampolino per prendere il potere, con l'appoggio naturalmente dei francesi, perché ritenevano che il francofilo Bokassa potesse meglio promuovere gli interessi francesi nella zona. Occultamente continuava a essere uno stato satellite, lo vedono come tale. Esattamente, però avevano probabilmente scommesso sulla persona sbagliata, perché poi gli eccessi di Bokassa furono tali che gli stessi francesi lo lasciarono cadere, anzi ispirarono dette il colpo di stato una mano per al suo ecco però c'è un momento importante, perché noi siamo abituati a vedere solo le letture postume delle grandi dittature. Quando Bokassa fece la grandissima cerimonia della sua investitura, di cui già si sapeva tutto, lui delle sue infinite mogli, dei suoi eccessi, già si cominciava a vociferare questa abitudine di dare qualche assaggino dei nemici per prenderne la forza. Ma questa fu una leggenda, non si sa bene se fu processato, sì, ma fu assolto per il reato di cannibalismo. Sì, esattamente. Fu condannato per i crimini che aveva commesso, soprattutto per l'eliminazione fisica dei suoi oppositori politici, però fece una strage di bambini in una scuola. Esattamente. Fu assolto per l'accusa di cannibalismo, però bisogna dire che in realtà la difesa di Bokassa fu molto abile, perché fece intendere un po' alla giuria che condannarlo per cannibalismo avrebbe probabilmente comportato un'idea che la pratica era seguita anche da altre persone, che non era il solo nel suo paese. È come la cricca di cui si parla oggi, dice, se esco fuori colpevole io mi tiro dietro tutti gli altri, perché tutti banchettiamo a carne umana. E quindi, però i cuochi reali imperiali dissero che nel freezer c'erano questi pezzi. Nonostante le testimonianze precise dei cuochi che sì, hanno sotto giuramento assicurato di aver preparato certi manicaretti per motivazioni così politico-nazionalisti, che fu assolto da questo. La cosa che sorprende è che però al tempo non c'era una percezione, almeno in Europa, di tutto questo. Quando si autoproclamò imperatore, ci furono telegrammi di tutti i capi di Stato, compreso anche il nostro, presidente Leone si congratulò. Quindi non avevamo noi la percezione che il re cannibale forse non era proprio giusto dargli appoggio. Probabilmente no, se si pensa che la sua, diciamo, la cerimonia dell'incoronazione, che fu dispendiosissima e che doveva in realtà servire a far conoscere questo sperduto paese, ne determinò il definitivo fallimento economico e sociale, fu finanziato dalla Francia, che aveva tutto l'interesse, appunto, nel periodo della decolonizzazione, ad avere dei presidenti o degli imperatori o dei monarchi, insomma, che potessero assicurare e promuovere gli interessi della ex metropoli. E quindi alla stessa cerimonia partecipò il ministro della cooperazione francese, il presidente dell'epoca Valéry Giscard d'Estaing, che con Bokassa aveva, si dice, particolari rapporti. Ci fu la questione dei diamanti, che costò praticamente la rielezione di Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing fu accusato di aver ricevuto in regalo dei diamanti. Delle manciate di diamanti. Non so se manciate, comunque è vero che i diamanti costituiscono la forse sola ricchezza, cioè, di quel paese. Già andarci a cena assieme poteva essere un elemento di discrimine, diciamo la verità, perché già si è sempre detto, già si diceva da allora che Bokassa banchettasse sgranocchiandosi manine di bambini e cose del genere. Sì, quindi è stupefacente pensare che all'epoca questa cerimonia di incoronazione partecipassero primi ministri, ministri che hanno assistito senza essere presi da attacchi di ilarità, ma anzi molto seriamente, al giuramento dell'imperatore Bokassa I, che giurava davanti alla storia di adottare i principi rivoluzionari del paese, e dicendo che lui aveva lo stesso destino di Napoleone. Tutti e due erano degli ex militari di umili origini, che tutti e due quindi erano destinati a essere imperatori. Gli giocò male seguire la traccia napoleonica, perché quando tornò lui in patria pensando di essere accolto sugli scudi, in realtà non fu proprio così. No, fu subito arrestato e processato, condannato a morte, poi la pena commutata all'ergastolo, poi fu liberato. Comunque poi, morto tranquillamente nel suo letto. Sì, praticamente morto nel suo letto, accusando sempre i francesi e il presidente Giscard d'Estaing di non averlo capito, non averlo nelle capito. Sue visioni. Tutti i dittatori, anche Nerone quando si uccide pare quale artista muore in me, almeno così dicono gli storici del tempo. Beh, abbiamo individuato con Domenico Vecchioni due caratteri fondamentali del grande dittatore: la follia, la folle capacità di trascinare le folle, ma una follia che in realtà è manifesta soltanto a posteriori, perché a questa follia deve essere sempre associata una sorta di consenso generale. Il grande dittatore deve essere comunque appoggiato all'esterno da chi può aiutarlo. Melog 2.0. I giudici dicono a Nicolae Ceaușescu che è finalmente giunta ora di fare luce sugli orrori da lui compiuto. La popolazione rumena ha sopportato troppi orrori. Tutto ciò era coadiuvato dalla signora Ceaușescu. La signora, la sovrana, l'imperatrice che faceva quello che voleva. Vi siete occupati negli ultimi 27 anni soltanto di persecuzioni. Il popolo in effetti è stato affamato, tutto era venduto all'estero per arricchire il conto personale dei coniugi Ceaușescu. Sono state commesse delle colpe imperdonabili. Questa è una cronaca che non possiamo fare a meno di ricordare perché è molto recente, parla del processo appunto a quello che si faccia chiamare il genio dei Carpazi e sua moglie, la cosiddetta madre della patria. Stiamo parlando di grandi dittatori, di noti dittatori della nostra contemporaneità, lo stiamo facendo con Domenico Vecchioni, ex ambasciatore d'Italia a Cuba, esperto di storia mondiale dello spionaggio, autore di Tiranni e dittatori, volti, manie, deliri e crimini del potere assoluto, edizioni Olimpia. Con Domenico Vecchioni stiamo analizzando quelle che sono le linee comuni di alcuni dittatori degli ultimi decenni. In particolare, questo di Ceaușescu non possiamo non ricordarcelo. A me impressionò molto vedere in un telegiornale la cronaca di una fucilazione, vedere poi i cadaveri di questa vecchia, di questo poveraccio, poveraccio fino a un certo punto, ma nella tragedia della morte siamo tutti uguali, che in realtà avevano ben titolo di farsi non proprio voler bene dai propri concittadini. Ma il distacco tra la popolazione rumena e Nicola Elena Ceaușescu era talmente forte che dopo la loro esecuzione avvenuta il giorno di Natale del 1989 la voce che circolava un po' tra le persone era questa: è il miglior regalo di Natale per il popolo rumeno da un quarto di secolo a questa parte. E in realtà il processo fu un processo, se vogliamo, politico, perché la giuria aveva due possibilità: o fare presto, molto presto, perché non bisognava dare tempo ai sostenitori di Ceaușescu magari di riprendere in mano la situazione, e quindi andavano eliminati, quindi il processo durò pochissimo, la pena di morte era scontata, oppure fare un processo secondo le normali procedure che avrebbe allungato un po' tutta ancora staremmo a seguire le fasi processuali. E poi anche perché sa che non è mai stato chiarito esattamente il chi ha scatenato la rivoluzione. Certo è stata anche un moto popolare, però è stato almeno inizialmente in qualche modo guidato da coloro che in realtà volevano solo sostituire i Ceaușescu, e poi probabilmente la situazione è scappata di mano perché i rumeni avevano sofferto troppo. Ecco, vediamo di individuare il segno folle della pazzia. In questo caso più mi sembra percepibile in Elena Ceaușescu, che si pensava, si autoproclamò una grande scienziata, in realtà era una vecchia ignorante, fine. Sì, Elena Ceaușescu aveva fatto gli studi elementari, quindi sapeva appena leggere e scrivere, però in questa appunto mania di grandezza, non soddisfatta di avere anche il potere politico, perché lei aveva un incarico, era praticamente vice primo ministro, ma era un ministro, quindi aveva un'influenza determinante anche sul piano politico, ma voleva anche così una gloria scientifica che la mettesse al di sopra. Una Madame Curie dell'Est. Esattamente, e ad ogni viaggio ufficiale del presidente sicuramente la moglie avrebbe avuto una laurea honoris causa di una università locale, dopo un lavoro di preparazione dei servizi segreti rumeni, per cui diventava un fatto politico rifiutare di dare una laurea alla moglie del dittatore. E devo dire che purtroppo anche in Italia la signora Elena ebbe riconoscimenti e fu insignita anche di un'altissima onorificenza, cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana. Allora ci si può chiedere quale merito. Quindi anche noi abbiamo dato una medaglia. Beh, una medaglia importante. E chi era il presidente al tempo? E, al presidente doveva essere, non so se era Pertini, probabilmente Pertini. E poi la signora Ceaușescu è stata anche in Italia appunto descritta come una scienziata, tant'è vero che ai suoi tra virgolette volumi ci sono delle presentazioni di illustri personaggi come ad esempio Antonio Carelli, che all'epoca era presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, o Giuseppe Montalenti, che era un notissimo genetista. Sì, è vero. Il problema è che diventava un fatto politico, cioè si poteva rinunciare. No, perché la scienza in qualche modo, secondo la loro visione, doveva essere al servizio dell'ideologia, quindi un'ideologia di pace, tutti gli scienziati sono per la pace. Ma questa è una sorta di revisione però interessante quella che sta facendo Domenico Vecchioni, di vedere quanto anche le comunità scientifiche, la politica vive di questo, mi scandalizza un po' meno, perché poi sono automatismi, molte volte i presidenti firmano un'infinità di onorificenze, nemmeno sanno a chi. Ma che la comunità scientifica si pronunci senza supporto concreto, reale, di pubblicazioni, di attendibilità sulla moglie di un presidente, di un dittatore, di uno stato straniero, dando a lei delle attendibilità scientifiche, questo soprattutto da parte di un genetista mi fa molta specie. Forse all'epoca non tutto si sapeva, come diceva lei, poi le cose si sanno dopo, sì, perché è sconcertante. La comunità scientifica si basa su cose certe, non su supposizioni. Esattamente. Sentiamo qualche ascoltatore. Diego, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Niente, io volevo semplicemente porre l'accento sulla necessità, comunque, indipendentemente dalla figura che vuol porsi a capo di uno Stato in maniera dittatoriale, della necessità appunto di che il popolo accetti anche nella sofferenza questo tipo di dittatura. Nello specifico vorrei citare una frase di Alan Conan, giornalista inglese: la democrazia consiste nello scegliere i vostri dittatori dopo che loro vi hanno detto quello che pensate di voler sentire. Quindi, indipendentemente da tutto, la fascinazione esercitata da parte di una persona che vuole porsi anche in maniera così grottesca, diciamo, a capo di uno Stato, nel tutto per tutto, la fascinazione sul popolo è necessaria, ed è necessario che il popolo accetti anche, appunto, ripeto, nella sofferenza questo tipo di situazioni. Guardi, gli elementi che noi giudichiamo kitsch, giudichiamo parossistiche, giudichiamo a volte sopra le righe, li giudichiamo tali perché appunto li consideriamo elementi pop, elementi che in realtà li ritroviamo poi nelle rappresentazioni care allo spirito popolare, quindi loro vanno nel loro parossismo, nel loro massimalismo estetico incontro a quello che è il gusto popolare. Questo è comprensibile, non lo vedrei, lo vedo con molta tenerezza questa cosa qua, non mi scandalizza. È chiaro che il trono zebrato colpisce molto di più che un austero a sedia dove dovrebbe sedersi uno statista. Assolutamente, e riprendendo l'ultimo discorso che facevate poco fa, anche oltre al popolo c'è anche una situazione, vuol dire, a livello internazionale politico. E questo è la seconda fattispecie. Diciamo un'anima folle, circense, burina, amplificata e condivisa dalle masse, e una forte catena di solidarietà, di poteri esterni che tengono questa sorta di gioco fra protagonista, clown e spettatore entusiasti in piedi perché a loro conviene. Roberto. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno al suo ospite. Ho ritenuto di telefonarvi perché stamattina avete sollevato un tema che mi incuriosisce da molto tempo, proprio quello del dittatore. Se ne parla, a volte mi capita di parlare di questi temi con amici, e constato che il dittatore piace. Il dittatore è una figura che piace. Attira, riempie le pagine, riempie le notizie, se ne parla per anni, insomma. Diciamo che la storia dell'ultimo secolo, la nostra storia dell'ultimo secolo, è costellata alle figure dei peggiori dittatori. Chi altro si ricorda di più se non i disastri provocati dai dittatori? Domenico Vecchioni. No, solo aggiungere che probabilmente piacciono però all'inizio, perché si presentano sempre come salvatori della patria e dopo un po' di tempo finiscono con essere invece i boia del popolo. All'inizio certo c'è consenso, soprattutto l'elemento fantasioso, l'elemento coreografico, un elemento che colpisce, da un senso di cambiamento rispetto al grigiore in cui uno individua sempre una sorta di dispotismo dello Stato. In realtà la persona si provoca lo scamiciato, quello che veste in maniera eccentrica, quello che dice parole forti, è quello che subito cattura l'attenzione perché è diverso, ma questa diversità poi segue un percorso molto particolare, molto tortuoso e molto pericoloso. Ci interrompiamo un attimo, 800 24 00 24, diamo la linea all'informazione del traffico, poi riprendiamovelo con molte telefonate. La gente comincia a percepire questa sorta di nascosta fascinazione, allo stesso tempo di lucida esecrazione per la figura fantomatica del dittatore. Melog 2.0. 25 anni di carcere per torture, omicidio e sequestro. E questa è la condanna decisa dai giudici per Reinaldo Benito Antonio Bignone, ex generale e ultimo dei dittatori argentini al potere dal 1976 al 1983. Manuel Noriega, l'ex dittatore panamense al potere dal 1983 all'89, è stato estradato dagli Stati Uniti alla Francia, dove dovrà scontare 10 anni di carcere per riciclaggio. A firmare l'atto di estradizione è il segretario di Stato. 800 24 00 24, stiamo facendo un'analisi dei dittatori forse un po' dimenticati degli ultimi decenni di storia. Parlavo prima con l'ambasciatore Domenico Vecchioni, che ha scritto Tiranni e dittatori per Edizioni Olimpia. C'è una sorta di oblio generazionale riguardo a questi dittatori. Tutti sanno, perché studiano nei libri, chi sia Hitler, chi sia Mussolini, chi sia stato Stalin e via dicendo. Ma questa ultima sventagliata di dittatori che noi abbiamo visto nascere, crescere e morire nei telegiornali, le nuove generazioni non sanno nemmeno chi essi siano. Sì, l'altro giorno proprio parlando con un gruppo di giovani francesi, poi ero convinto che il nome di Bokassa avrebbe evocato chissà quanti ricordi, invece non sapevano chi fosse. E la quindi stessa cosa ovviamente vale per adesso abbiamo citato appunto Bignone, Noriega, il Centro America, il Sud America, diciamo l'America Latina è un territorio quasi storicamente fecondo di dittature. Lo Stato delle Bananas non a caso cita e prende spunto comunque da quell'area lì. C'è sempre il dittatore sudamericano nel nostro immaginario. Se non altro c'è stato sicuramente negli ultimi 50-80 anni, ed è vero che si dimentica. Beh, lei è stato anni a Cuba, qualcosa dovrebbe sapere. A Cuba la situazione è tuttora problematica. Io vorrei farci tornare serenamente, perciò dica quello che può dire. Cita Fidel Castro in questo libro. Sì, perché diciamo, voglio dire, Cuba è un argomento difficile da trattare, complesso. Perché le interpretazioni sono amate, odiate, amate, divergenti, contrastanti. Però meta di piacevole turismo da parte di tanti italiani. Esattamente, però bisognerebbe forse partire da una premessa, cioè se si parte dalla premessa che a Cuba c'è un regime, non si può dire che non ci sia un regime, che poi un regime che abbia raggiunto alcune conquiste sociali nel campo della sanità, nel campo dell'istruzione, si può anche discutere, però se si nega che a Cuba ci sia un regime, allora il discorso diventa difficile, perché la realtà è questa. Non c'è libertà, non c'è una divisione dei poteri tradizionale. Il Parlamento cubano, che è monocamorale, un'assemblea, per dare un esempio, non ha una sede propria, si riunisce praticamente due volte l'anno per due giorni in una palazzo dei congressi, come se fosse una convention di, non so, di dentisti. Ed è divertente, tra virgolette, vedere come si approva la legge finanziaria, per esempio, credo che sia l'unico paese al mondo. Per alzata di mano. Si approva in un'ora il tempo del ministro competente di leggere il suo discorso, il tempo del presidente dell'assemblea di chiedere se ci sono obiezioni o osservazioni, che non ce ne sono quasi mai, e si approva la legge finanziaria. Però c'è da dire due cose, secondo me. A Castro non sono stati imputati grandi genocidi, deportazioni tante, probabilmente qualche avversario politico forse se ne potrebbe approfondire un po' più. Poi è stato tuttora, lo è in parte, un grande mito della, almeno dal punto di vista nazionale, della sinistra nostrana. C'erano viaggi culturali verso Cuba, associazioni Amicizia Italia Cuba. È un po' difficile oggi, e poi essendo ancora lui abbastanza, mi sembra presente. È un po' difficile, forse a posteriori si farà un'analisi un pochino più... Sì, è sempre difficile parlare di personaggi contemporanei, però voglio dire che la situazione è stata drammatica all'inizio della rivoluzione, cioè quindi persone eliminate in maniera piuttosto drammatica ce ne sono state. Poi il sistema si è consolidato. E lui non ha mai dovuto rispondere internazionalmente di questo? No, perché all'inizio si è trattato di una guerra civile, per cui erano i nemici della rivoluzione che andavano eliminati. Sappiamo il ruolo che ha avuto Che Guevara subito dopo la presa del potere, quando era stato nominato procuratore generale, e anche sul numero delle vittime, certo, come al solito ci sono cifre discordanti, no? Perché secondo alcuni le vittime complessive, diciamo, di 50 anni di regime sarebbero quasi 6.000, quindi relativamente poche. Secondo i dissidenti sarebbero molti di più, se si considerano anche tutte le persone, circa 60.000, che sono morte nel tentativo di raggiungere la Florida Molte volte venivano proprio invitate a andarsene per quella strada impossibile, quella via impossibile. Sentiamo qualche ascoltatore. Isa, buongiorno. Buongiorno. Lei è albanese. Sì, io porto la mia testimonianza diretta, sarei meno filosofico, insomma, e direi del dittatore che per oltre 50 anni ha tenuto l'Albania come l'ha tenuta, insomma, ha fatto più morte lui che tutti gli altri grandi dittatori insieme, insomma. E direi che la cosa che mi turba ancora che... Oxa. Scusa? Oxa, pronuncio sì, bene. Oggia. Sì, vabbè, si pronuncia così. E allora, la cosa che mi rimane ancora perplessa è che lui ha venduto l'Albania, cioè una gran parte dell'Albania, solo per stare in potere, e che oggi la maggior parte, una bella parte dei loro figli, perché lì era un sistema di dittatura e lui era il capo, li troviamo ancora in politica. Cioè, so che la gente che ha ancora noi altri ci rappresenta, purtroppo. C'è questa sorta di dimenticanza collettiva che abbiamo già in parte sottolineato e che è ancora più forte quando ci sono delle propaggini concrete, reali e viventi delle grandi dittature, che i figli di Hoxha oggi facciano parte della politica attuale albanese. Lo sentiamo con un certo stupore, ma nemmeno tanto. Non è che vogliamo essere cinici in questo, ma capiamo. Lei può aggiungere qualcosa, Domenico Vecchioni, rispetto a questo? No, ha perfettamente ragione. Succede, sorprende, ma succede. Altro esempio. Luca, buongiorno. Lei vuole citarci un altro grande dittatore che prima è stato appoggiato, riverito, e poi è stato dagli altari buttato nella polvere. Non so se ha ragione, a torte, la prima o la seconda delle manifestazioni, però anche questi sono fatti storici su cui bisognerà molto approfondire. Di chi vuol parlare, Luca? Volevo giusto parlare di altari, visto che si è parlato della mano divina che guida questi dittatori. Saddam Hussein vuol parlare. Saddam Hussein, esattamente, che... Si diceva in uno speciale che ho visto su Rai 2 qualche anno fa che gli si ritirasse in preghiera al pomeriggio ad un certo orario più o meno fisso e pregasse se stesso. Beh, questo fa parte delle caratteristiche del dittatore, visto che lui è un'emanazione, un avatar divino, è chiaro, preghi se stesso. Hussein non è citato nel suo libro, non fa parte dei dittatori, forse sarà in una seconda edizione. Lei si è occupato, avrei parlato volentieri di Marcos e di Imelda Marcos, la signora delle migliaia di scarpe, ma forse avremo un'altra occasione per parlare di questo. Vi ricordo comunque tutto ciò che c'è da dire sui tiranni e dittatori degli ultimi decenni lo trovate nel libro dell'ambasciatore Domenico Vecchioni. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.